my body plays for it so loud. Over sand of time, a golden temple resting by, sleeping life asleep and rest the dust. Flit so misty bird, hold and lift my brain so high. Now I'm running with my fancy, my mind flies again. Again.

We'll be right back. gli occhi tuoi non vivi niente più, nemmeno il nome scritto di te. Non sei vissuto mai, non sei vissuto mai, non sei vissuto mai. We'll be right back. risposta evasiva. Quando chiedevo il perché della vita a chi poteva dar niente, ma in un vecchio cieco che mi chiede l'ombra di una vera carità, crolla tutto quello che mi dà la società. Vive il cuore di una vita morta nello sguardo che mi lascerà solo. Lascio cadere la pioggia su me, mi bagna ma so che non c'è, nulla rimane di ciò che era ieri, oggi domani rivivo. Forse cercherò qualcuno, forse niente cerco, questo non lo so. Resterò da solo, fermerò il ricordo, ma troverò qualcosa dove non lo so, ma indietro non ritornerò mai. Cadere la pioggia su me. We'll be right back. so many songs of tonight. Red in the sunset, I'll see you. This vision is a joy for me, yeah. On top of this cliff, I'm crying. Everybody's gonna see you die. she hears her own, you can be free, you can be free. You